pace. Sarà il nemico di pace, facente il nuovo lupi di pace, facente il nuovo lupi di pace. C'è il di la falce di Dio. Con ogni la falce di Dio.